Anna qui a Roma. Maya che ci sta ascoltando in Umbria, un grosso abbraccio a Cristiano Bocci di Chemical Resistance e tanti altri progetti e collaborazioni. Salutiamo Margherita, Tiziano Zeno Farinacci di Pigreco, Venusia Zozzetta Stramonio, Cupio Dissolvi, ma non solo, Simone della Morte, Doriana Panico in quel di Taranto, Valente Artista dal Friuli, Lupsi con Lucia Cagliazza, Mariano qui a Roma. Sempre da queste parti abbiamo Lake Wick, la storia ambient, Stefano Di Serio. Altri musicisti e affezionati, Marco Magier di Progetto Sonoro, Omicidio con Antonio Zoviet. Abbiamo Noise Cluster con Flavio ed Arianna, Jean-Claude Aubertot in quel della Val d'Aosta. Anche questa sera iniziamo con Music for Abandoned Monasteries, questa compilation ideata attraverso la 8 Tower Records da Raffaele Pezzella, una compilation che già dal titolo mostra chiari gli intendimenti. Colonne sonore per questi luoghi abbandonati di raccoglimento e misteriosi e fascinosi, che vede all'appello, chiamati all'appello, numerosi artisti italiani e stranieri. Questa sera cominciamo con due artisti particolarmente sotterranei, almeno io non ho una profonda conoscenza di questi due che ci andremo ad ascoltare. Cominciamo con l'americano Infinexuma, che ci introduce al programma con Architettura Astrala Neagra, lingua misteriosissima, sembra rumeno ma non credo lo sia. Ci sarà poi il finlandese Torus Dom con The Resonance of Windows. Come già annunciato, eccolo qui, Taurus Dome, The Resonance of Windows. Thank you. Nel vasto panorama, diciamo, del dark ambient, annoveriamo anche questi due misteriosi sintesisti, uno proveniente dagli Stati Uniti, infine Exuma, il finlandese Taurus Dome. Le caratteristiche quindi sono quelle classiche del genere, rarefatto panorama musicale oscuro, dilatato. Due personaggi che li troviamo in Music for Abaddon Monasteries, uscito 2 anni fa grazie alla Late Tower di Raffaele Pezzella. Saluto Nicola Locci di Stigmate, Hexagonal, Wurnus Island dal Piemonte. Arriviamo al primo artista italiano che si ispira parzialmente a questi suoni. Trattasi di Rodrigo Passannanti, anche se poi in questo lavoro di Forgotten World possiamo trovare anche dei richiami e riferimenti al krautrock degli anni 70 di scuola, per esempio Tangerine Dream. Rodrigo è andato a pescare questa etichetta argentina, la Cyclical Dreams, e appunto Forgotten Words esce per questa realtà emergente. Questa sera ci godremo Second Skin. credo di dire una cosa giusta nell'affermare che questo album di Rodrigo Passananti si pone, direi, nel solco della tradizione dei Corrieri Cosmici degli anni 70. Una tradizione che da queste parti è assai stimata ed apprezzata. Forgotten Words si chiama l'ultimo lavoro di Rodrigo Passananti, che riesce a dipanarsi tra atmosfere IDM, synth pop e fino a questi album così diversi e così legati appunto a quella tradizione. Effettivamente un bel viaggio mistico, come dice giustamente Antonio Zoviet. Saluto Dario Righi e Giovanni Lisi Silvestri, anche loro pezzi di storia della scena sperimentale italiana. Ancora in Italia è una vecchia conoscenza che risponde al nome di Maurizio Landini, che ha fondato una nuova sua avventura dal nome Les Anges Morts, giunta a questo, credo, primo lavoro sulla lunga distanza che porta il nome di Desist. Andremo incontro a un suono un po' più aspro rispetto a questi così carezzevoli per certi aspetti di Rodrigo Passanante. Più cupi, plumbei invece sono gli intendimenti appunto di Les Anges Morts. Ci ascolteremo Other Threat. sempre sul pezzo il nostro Maurizio Landini con Les Anges Morts, con Deceased attraverso la Fluttering Dragon, realtà celebre della Polonia per quanto riguarda la sperimentazione. Qualcosa quasi di ultraterreno, ovviamente siderale, per quanto riguarda Les Anges Morts. Lo ricordiamo in passato come Typhoid, lì però in una dimensione quasi affine al breakcore attraverso la Hens di Udo Wiesemann, e poi una Sander, è un progetto più recente. Andiamo dalla Death in Venice Production, questa enorme realtà proveniente da Venezia nel campo della sperimentazione, dell'industrial, del noise, che vede tra gli altri anche H-Rate, la nuova avventura sonica di Simona della Morte. Con questa ragione sociale esordisce con Doom is written on your brow. Stiamo alzando gradualmente il tiro, andando sempre più a parare verso l'industrial e il noise. Ci sono qui, anche in questa traccia, Paranoical Critical, degli accenni Martial. Per chi è amato triari arditi potrà trovare delle assonanze non indifferenti. Eccolo qua dunque, a trait. atmosfere da disgrazia incipiente. L'Ultimate Trait è uno dei migliori dischi di questo inizio 2025, perché amo ovviamente questi suoni così claustrofobici e death ambient. Doom is written on your brow. Simona della Morte in combutta con un altro personaggio, e qui chiedo scusa a Simona, di cui non mi ricordo il nome, perché il progetto in realtà è composto da due persone. D'altronde le note, diciamo, in giro per il web sono assai scarse. Simona lo so che ci sta ascoltando, se lo vuole ricordare mi farebbe cosa gradita. So che Venusia queste sonorità producono anche cambiamenti fisici. Grazie Simona. Jeroen Visser, credo olandese. Giovanni si chiede perché al mondo ci sono le cose vere e le cose supposte. Le cose vere per il momento mettiamole da parte, ma le supposte dove le mettiamo? Qui vi potete sbizzarrire in varie ipotesi, mentre io mi limito ad andare avanti e andarmene in Svezia con Boxholm, che è un progetto niente poco di meno con Peter Anderson di Rise on Detre e anche Peter Anderson di Deutsch Nepal. Boxholm, o meglio Boxholm, è il paese dove sono nati entrambi. E non soltanto loro, c'è anche Desideri Marginis, che mi sembra sia nato lì, e forse pure qualcun altro, a dimostrazione di un vero cono d'ombra che aleggia in quel paesino alle porte di Stoccolma. Comunque ottimi musicisti tutti questi da me menzionati. Allora, Here Comes Boxholm for Your Earthly Delights è un doppio CD non lontanissimo da queste atmosfere. Il primo capitolo si apre con Delusions between Rajomta e Langdebrunna. Credo anche queste delle località. E poi Gabriel and Beat the Hammers. Tågen rusar förbi vårt lilla brukssamhälle där det ligger i västra Östergötland i stambanan mellan Mjölby och Tranås. Men vi tänker stanna. Vi är nämligen nyfikna. Redan från kupéfönstret ser man att samhället har en alldeles säregen karaktär. En ovanlig blandning av nytt och gammalt. Och ett lugn som skarpt kontrasterar mot tågets broska. Men det medför att om ni också skulle ha lust att lära känna folk här, hur de lever, hur de har, hur de tänker, så får ni ha en tid åt. Det tar sin tid och man måste låta det ta den tid det tar. Trollmannen kallas klampare, för smederna gick i träskor för. Är du klampare du också? Boxholmsbo? Ja, jag trivdes mycket bra, men förhållandena här var inte alls de trevliga som de är nu. Och slagsmålen på den slagsmålen, det var jag intresserad för. Men, och var det med i. Men suveri och kortspel och sånt, här är ju förfärligt här. Det fanns inga organisationer än i Boxholm då. För de kom inte från 1907. Men smederna på sådana, det var ju de enda som de talade om, för det fanns inte andra smeder här. Så de var verkliga aristokrater i Boxholm. De var en grupp för sig, eller kan man säga. I förtjänst och allt. Har du någon gammal smed som du kan bekanta oss med? Ja, jag har ju Boman. Han är ju en gammal bekant. Har mycket varit med mig i förhandlingsavseende också. Så. Det är han med kärran. Och hans pappa var en skicklig smed och det var Boman också. Det finns inget att anmärka på. Jag tycker i hettan skulle en sån där liten inte klara sig. Sättet att arbeta är en smältel. Det är så olika. Men de som hade smeder i grund och botten till föräldrar, de visste hur det skulle smidas. Ja, det var besvärligt och det var varmt. Och svetten rann och rann i ögonen och det ser och var besvärligt. Och rann ner för ansiktet. Och vi hade ju bara skjortan på oss och så folkarna och träskorna och barhuda var vi. Och jag var till min, i smejan till min far med kaffe. Och då hade brukspatronen hade främmande, de kom ner och skulle titta på smidet. Och då var det en smed där, han var svett och då tog han upp framråden på skjortan och på törken sig. Man följde ett av brunkivorna, vi såg hela Nicolenus på. De sa ju ingenting och smed han kanske inte tänkte på helt enkelt.